Quante luci danzavano adesso nella Senna, assai più che allora. Allora io pensavo che non vi potesse essere al mondo una cosa più grande ed entusiasmante di Parigi. Ma Giambattista dice che la nostra Parigi di oggi è 100 volte più fantastica di quella di allora e che io non sono in grado di giudicare la diversità. Napoleone ha consentito agli emigrati aristocratici di rimpatriare. Nei palazzi del quartiere Saint-Germain si tessono nuovamente intrighi. Giardini confiscati vengono restituiti, portatori di fiaccole corrono ai lati delle carrozze dei Noailles, dei Razzvillis, dei Montesquieu, dei Montmorency. Con graziosi brevi passi, queste grandezze dell'antica corte di Versailles incedono attraverso le sale delle Tuileries e si inchinano davanti al capo supremo della Repubblica e si curvano sulla mano della ex vedova de Beauharnais, che non è mai fuggita all'estero e che neppure mai ha sofferto la fame, ma si faceva pagare i conti da Monsieur Barras e ballava con l'ex laquais Tallien al ballo dei congiunti delle vittime della ghigliottina. Le corti reali straniere mandano molti dei loro più distinti diplomatici a Parigi. A me spesso si confonde la testa quando devo ricordarmi i titoli di tutti questi principi, conti e baroni che mi vengono presentati. Ho timore di lui, non ha cuore. Udivo distintamente la voce di lei in questa notte di primavera incipiente, di lei, di Cristina, la ragazza contadina di Saint-Maximin, la moglie di Luciano Bonaparte. 100.000 testimoni hanno veduto che fu Luciano allora a trascinare suo fratello alla tribuna e a suscitare con i suoi occhi di fiamma il primo Viva Bonaparte. 2 settimane dopo tremavano le pareti delle Tuilerie dove essi già altercavano furiosamente. Il ministro dell'interno Luciano Bonaparte e il primo console Napoleone Bonaparte. Prima per la censura della stampa introdotta da Napoleone, poi per l'esilio di alcuni scrittori. E ogni tanto anche per Cristina, la figlia dell'oste, alla quale era negato l'accesso alle Tuilerie. Luciano non rimase molto tempo ministro dell'interno e Cristina non fu più che per poco tempo la causa di eterne liti familiari. La rotondetta contadina dalle guance colorite e dalle liete fossette sul viso, dopo un umido inverno, incominciò a sputar sangue. Un pomeriggio andai a farle visita e parlammo della imminente primavera e guardammo dei giornali di mode. Cristina desiderava farsi un abito a ricami d'oro. Oh, con questo abito entrerete in carrozza alle Tuilerie e sarete presentata al primo console e sarete così bella che lui avrà invidia di Luciano, dissi io. Le fossette di Cristina scomparvero. Ho timore di lui. Non ha cuore. Finalmente Madame Letizia ottenne che Cristina fosse ricevuta alle Tuilerie. Una settimana dopo, incidentalmente, Napoleone ne diede notizia a suo fratello. E non dimenticare di condurre domani sera tua moglie all'opera e di presentarmela. Ma Luciano, rispose soltanto, temo che mia moglie sarà costretta a non accettare questo lusinghiero invito. Le labbra di Napoleone divennero immediatamente sottili. Non è un invito, Luciano, è un ordine del primo console. Luciano crollò il capo. Mia moglie non potrà neppure obbedire a un ordine del primo console. Mia moglie sta morendo. Al funerale di Cristina, la più splendida corona recava questa scritta: alla mia cara cognata Cristina, N. Bonaparte. La vedova Juberton ha i capelli rossi, un seno colmo. È un sorriso tutto fossette che ricorda Cristina. Era stata la moglie di un piccolo ignoto impiegato di banca. Napoleone esigeva da Luciano che egli sposasse una fanciulla dell'alta aristocrazia rimpatriata, ma Luciano comparve all'ufficio di stato civile con la vedova Juberton. Dopo ciò, Napoleone firmò un ordine di espulsione a carico del cittadino francese Luciano Bonaparte, già membro del Consiglio dei 500, già ministro dell'Interno della Repubblica Francese. Prima di partire per l'Italia, Luciano venne a farci una visita di congedo. Quel giorno di brumaio volevo il bene della Repubblica, voi lo sapete, Bernadotte, disse. Lo so, rispose Giambattista. Ma siete stato in grande errore quella volta, in brumaio. Oltre 2 anni fa Ortensia ha pianto tanto che le sentinelle nel cortile delle Tuilerie guardavano spaventate su alle sue finestre. Napoleone Aveva fidanzato la sua figliastra con suo fratello Luigi. Luigi, questo ragazzo grasso e dai piedi piatti, non provava alcun sentimento per l'incolore Hortense. Lo interessavano di più le attrici della Comédie Française, ma Napoleone aveva timore di qualche nuova mésalliance in famiglia. E così Hortensia si era rinchiusa e urlava tra le lacrime, rifiutava di lasciare entrare sua madre. Alla fine si mandò a chiamare Giulia. Giulia picchiò con i pugni all'uscio di Hortensia finché la ragazza le aprì. «Posso fare qualcosa per voi?» domandò Giulia. Hortensia scosse il capo. «Voi amate un altro, non è vero?» disse Giulia. I singhiozzi di Hortensia cessarono e la sua magra figura si irrigidì in un atteggiamento di difesa. «Voi amate un altro?» ripeté Giulia. Hortensia annuì impercettibilmente. «Parlerò al vostro patrigno», disse Giulia. Hortensia guardava fissa innanzi a sé, sfiduciata. «Forse che quest'altro fa parte del contorno del primo console? Potrà il vostro patrigno considerarlo come un degno aspirante?» Hortensia non si muoveva. Dai suoi occhi spalancati sgorgavano le lacrime. «Oppure quest'altro è già sposato?» Le labbra di Hortensia si dischiusero. Cercò di sorridere, improvvisamente scoppiò in una risata. Rideva, rideva, stridula e senza freno. Si contorceva per le risa come una pazza. Giulia l'afferrò per le spalle. «Smettetela dunque! Cercate di controllarvi, se non la smettete dovrò chiamare il medico!» Ma Hortensia non poteva cessare di ridere. Allora la mia paziente Giulia si arrabbiò. Senza pensarci su, affibbiò ad Hortensia un ceffone. Hortensia ammutolì, la bocca spalancata si richiuse ed ella trasse due profondi sospiri. Poi si calmò. «Ma io amo lui», disse sottovoce. A questa possibilità Giulia non aveva mai pensato. «E lui lo sa?» Hortensia accennò di sì. «Ci sono poche cose che lui non sa. E il resto lo viene a sapere per mezzo del ministro di polizia Fouché». Le sue parole avevano un tono d'amarezza. «Sposate Luigi, è il meglio che possiate fare. Luigi è pur sempre il suo fratello favorito». Un paio di settimane dopo si celebrarono le nozze. Paulette fu citata come esempio ad Hortensia, come si era ribellata allora a quel matrimonio. Napoleone aveva dovuto addirittura forzarla a sposare il generale Leclerc. E quanto aveva pianto quando Napoleone pretese che lei accompagnasse Leclerc nel suo viaggio a San Domingo. Finalmente, inondata di lacrime, si era imbarcata con lui. Leclerc morì di febbre gialla a San Domingo e Paulette ne fu così inconsolabile che recise i suoi capelli color del miele e li depose nella bara di lui. Il primo console suole ricordare questo caso come certissima prova del grande amore di Paulette per il defunto. «Una volta io gli ho risposto al contrario. Ciò prova che ella non lo ha mai amato e che perciò proprio all'ultimo ha voluto fare qualche cosa per lui». I capelli di Paulette erano ricresciuti in lunghe anella fino alle spalle e Napoleone ha voluto che ella rialzasse quelle ciocche con i più preziosi pettini di perle del mondo. Quei pettini fanno parte del tesoro familiare dei principi borghese. I borghese sono di antichissima nobiltà italiana, imparentati con tutte le case regnanti d'Europa. Napoleone ha affibbiato come moglie la sua sorella prediletta Paolina al principe Camillo Borghese. Già anziano, dall'incedere stanco e dalle mani tremanti. Sua Altezza la principessa Paolina Borghese. Dio mio, Paulette, dal vestitino di seta rammendato, con quelle sue amicizie di strada, ne ha fatta. Sì, tutti sono cambiati. E per l'ultima volta guardai le luci danzanti nell'acqua del fiume. Ma perché proprio io, pensavo, perché si dice che io sono l'unica che potrei ottenere qualche cosa? Considerai allora ancora disperata la mia missione. Questo Borbone, il duca d'Anghien, che a quanto si dice è al servizio degli inglesi e continuamente minaccia di riconquistare lo stato per i Borboni, è stato fatto prigioniero. Ma la sua cattura non è avvenuta sul suolo francese. Il duca non si trovava in Francia, bensì in una cittadina che si chiama Ettenheim e fa parte della Germania. Quattro giorni or sono, Napoleone ha improvvisamente ordinato un'aggressione militare contro questa cittadina. 300 dragoni hanno passato il Reno, hanno rapito il duca Ettenheim e lo hanno trascinato in Francia. Adesso il prigioniero aspetta nel forte di Vincennes che si decida la sua sorte. Una corte marziale lo ha condannato oggi per alto tradimento e per attentato alla vita del primo console alla pena di morte. La sentenza di morte è stata rimessa al primo console. Napoleone potrà confermarla o graziare il condannato. Le antiche famiglie patrizie che adesso frequentano Giuseppina l'hanno naturalmente supplicata di chiedere grazia a Napoleone. Si erano date tutte convegno alle Tuilerie mentre i diplomatici assediavano Talleyrand. Napoleone non ha ricevuto nessuno. Giuseppina cercò una volta a tavola un'occasione per influire su di lui. Con un "vi prego di non incomodarvi per questo", fu ridotta al silenzio. Verso sera Giuseppe si fece annunziare a Napoleone. Questi fece domandare di che cosa si trattasse. Giuseppe rispose al segretario di una cosa che urge ai fini della giustizia. Il segretario ebbe ordine di far sapere a Giuseppe che il primo console non voleva essere disturbato. A cena Giambattista fu taciturno più del solito. Improvvisamente batté il pugno sulla tavola. Capisci che cosa osa fare Bonaparte? Va a prendere con l'aiuto di 300 dragoni un avversario politico all'estero, lo fa condurre in Francia e lo deferisce a un tribunale di guerra. Per qualunque uomo che abbia soltanto un barlume di senso del diritto, ciò fa l'effetto di uno schiaffo in faccia. E che ne sarà del prigioniero? Senti, non può mica farlo fucilare? Dissi inorridita. Giambattista alzò le spalle. E ha prestato giuramento alla Repubblica. Ha giurato solennemente di difendere i diritti dell'uomo, disse. Non parlammo più del duca, ma io non potevo fare a meno di pensare a quella condanna a morte che probabilmente si trovava sul tavolo di Napoleone e attendeva un suo tratto di penna. Giulia mi ha detto che Gerolamo ha consentito a divorziare da quell'americana, dissi alla fine per interrompere il silenzio opprimente. Gerolamo, il ragazzo terribile d'allora, era diventato ufficiale di marina e durante un viaggio di mare per poco non era caduto in mano agli inglesi. Per sfuggire a questi aveva approdato in un porto americano. Là si era sposato con Miss Elizabeth Patterson, una ragazza di Baltimora. Napoleone naturalmente era andato su tutte le furie. E ora Gerolamo si trova in viaggio di ritorno ed è pronto a compiacere il suo grande fratello e a divorziare dalla ex Miss Patterson. Ma a molti quattrini. Questa era stata la sola forma di obiezione che gli aveva osato opporre per iscritto a Napoleone. Le faccende familiari del primo console non mi interessano affatto, dichiarò Giambattista. In quello stesso momento udimmo una carrozza che si fermava davanti a casa nostra. Sono le 10 passate, dissi io. Veramente è un po' tardi per farci visita. Fernando entrò a gran passi e annunciò Madame Letizia Bonaparte. Fui molto sorpresa. La madre di Napoleone non soleva far visita senza preavviso. Ella si cacciò subito dietro Fernando ed entrò. Buonasera, generale Bernadotte. Buonasera, madame. Madame Letizia non è invecchiata in questi anni, è anzi ringiovanita. La sua faccia, un tempo così dura e preoccupata, appare adesso più piena. Le rughe agli angoli della bocca sembra che si siano spianate. I capelli scuri hanno tuttavia qualche ciocca bianca e sono sempre pettinati all'indietro, alla foggia contadina, e raccolti in una crocchia sulla nuca. Sulla fronte ricadono un paio di riccioli alla parigina che non le si addicono affatto. La conducemmo in salotto, ella sedette e lentamente si sfilò i guanti grigio chiaro. Involontariamente io fissai le sue mani col grosso anello a cameo che Napoleone le ha portato dall'Italia. Mi tornarono alla mente le sue dita rosse e screpolate di una volta che lavavano continuamente biancheria. Generale Bernadotte, credete possibile che mio figlio faccia fucilare questo duca d'Enghien? Domandò subito. Non è stato il primo console, ma un tribunale di guerra a condannare a morte il duca, rispose cauto Giambattista. Il tribunale di guerra si regola secondo la volontà di mio figlio. Credete possibile che mio figlio faccia eseguire la sentenza? Non solo possibile, madame, ma anche molto probabile, altrimenti non saprei perché avrebbe dato ordine di arrestare il duca, che non si trovava sul territorio francese, e di deferirlo a un tribunale di guerra. Vi ringrazio, generale Bernadotte. Madame Letizia osservò attentamente il cameo del suo anello. Conoscete le ragioni che hanno indotto mio figlio a questo passo? No, madame. Le supponete? Preferirei non manifestarle, madame. Ella tacque ancora. Curva in avanti, con le gambe leggermente aperte, sedeva sul divano come una contadina che sia molto stanca e che possa concedersi soltanto un momento di quiete. Generale Bernadotte, sapete che cosa significa l'esecuzione di questa condanna a morte? Giambattista non rispose. Si passava la mano sui capelli e io potei rendermi conto di quanto gli fosse penoso questo discorso. Allora ella levò la faccia con gli occhi spalancati. Un omicidio! Un volgare omicidio! Ecco! Non dovete agitarvi, signora, incominciò Bernadotte crociato, ma ella alzò ambe le mani e gli troncò la parola. Non agitarmi, voi dite, generale Bernadotte? Mio figlio è sul punto di commettere un volgare omicidio e io, sua madre, non dovrei agitarmi? Io mi alzai e andai a sedermi vicino a lei sul divano, le presi la mano, le sue dita tremavano. Napoleone avrà delle ragioni politiche. Ma ella mi aggredì. Sta zitta, Eugenia. Poi spiò di nuovo il viso di Giambattista. Per un assassinio non ci sono scuse, generale. Le ragioni politiche sono... Madame, disse calmo Giambattista, molti anni fa voi avete mandato vostro figlio all'Accademia Militare e lo avete fatto studiare da ufficiale. Può darsi, madame, che vostro figlio apprezzi diversamente da voi il valore di una vita umana. Ella scosse il capo, disperata. Qui non si tratta di una vita umana in una battaglia generale. Qui si tratta di un uomo che è stato trascinato in Francia con la violenza per fucilarlo. Con questa fucilazione la Francia perderà il suo buon nome. Io non voglio che il mio Napoleone diventi un assassino. Non lo voglio, capite? Dovreste andargli a parlare, madame, propose Giambattista. No, no, signore. La sua voce esitò e la sua bocca si mosse eccitata. Non servirebbe a nulla. Napoleone mi direbbe, mamma, tu non capisci niente. Va a dormire, mamma. Vuoi che aumenti il tuo assegno mensile? Lei deve andare, signore, lei. L'Eugenia. Mi si fermò il cuore. Disperata, presi a scuotere il capo. Signor generale, voi non lo sapete, ma allora, quando il mio Napoleone fu arrestato e noi temevamo che lo fucilassero, è stata lei, la piccina, l'Eugenia, è stata lei ad andare dalle autorità e lo ha aiutato. E adesso deve andare da lui e deve ricordarglielo e pregarlo. Non credo che ciò potrebbe fare impressione al primo console, disse Giambattista. Eugenia, pardon, signora Bernadotte, madame, voi certo non volete che il vostro paese davanti a tutto il mondo passi per una repubblica di traditori. Certo che non lo volete. Mi hanno anche detto, oh, quanta gente è stata oggi da me per parlarmi di questo duca. Mi hanno detto che ha una vecchia madre e una fidanzata e, madame, abbiate pietà di me, aiutatemi. Non voglio che il mio Napoleone... Désirée, mettiti in ordine e fatti condurre alle Tuilerie. Giambattista parlò a bassa voce con grande risolutezza. Io mi alzai in piedi. Tu mi accompagnerai, Giambattista, non è vero? Tu mi accompagnerai. Tu sai molto bene, ragazzina, che ciò toglierebbe al duca l'ultima possibilità. Giambattista sorrise amaramente. Poi mi prese per le spalle e mi attirò a sé. Devi parlare da sola con lui. Temo che non avrai successo, ma devi tentare, mia cara. La sua voce era intrisa di pietà. Io mi difendevo ancora. «Ma non sta bene che io vada sola di notte alle Tuilerie», dissi. «Ci vanno troppe signore sole la sera tardi». Non mi importava proprio nulla che Madame Letizia mi udisse. «Sì, sole dal primo console». «Mettiti un cappello in capo, una mantiglia sulle spalle e parti». Giambattista non disse altro. Prendete la mia carrozza, madame, e se non avete niente in contrario, io vorrei attendere qui il vostro ritorno, disse Madame Letizia. Io annuii macchinalmente. Non vi disturberò, generale, mi siederò qui alla finestra e aspetterò. La udii dire ancora. Poi corsi in camera mia e in gran fretta mi allacciai il mio cappello nuovo con la rosa pallida. Da quando 4 anni fa, la vigilia di Natale, esplose un ordigno infernale proprio dietro la carrozza di Napoleone, e da quando non passa mese che il ministro della polizia Fouché non sventi qualche attentato ordito contro il primo console, non si può entrare alle Tuilerie senza essere fermati ogni 10 passi e interrogati su chi e su che cosa si cerchi. Tuttavia le cose andarono assai più semplicemente di quel che avevo supposto. Devo parlare al primo console. E mi si lasciava subito passare. Non mi si domandò il mio nome. Le guardie nazionali reprimevano soltanto un sorrisetto. Mi fissavano incuriosite e sembrava che mi spogliassero mentalmente. Tutta la faccenda mi riusciva terribilmente penosa. Finalmente raggiunsi la porta che, secondo le apparenze, doveva condurre all'anticamera del gabinetto del primo console. Non ero mai stata lì, perché le poche feste di famiglia a cui avevo assistito alle Tuilerie si erano sempre tenute negli appartamenti di Giuseppina. I 2 soldati della Guardia Nazionale, che stavano di sentinella davanti a quella porta, non mi domandarono nulla, perciò io apersi ed entrai. Ad uno scrittoio sedeva un giovanotto in abito borghese e scriveva. Dovetti schiarirmi la gola un paio di volte prima che lui mi udisse. Allora balzò in piedi, come se lo avesse morso una tarantola. «Desiderate, mademoiselle?» «Vorrei parlare al primo console.» «Avete sbagliato, signorina. Voi vi trovate nei locali d'ufficio del primo console.» Non capivo che cosa intendesse dire il giovanotto. «E forse che il primo console è già andato a letto?» domandai. «Il primo console si trova ancora nei locali d'ufficio. E allora conducetemi da lui.» «Mademoiselle...» Era buffo tutto questo. Il giovane, che finora terribilmente confuso aveva fissato le punte delle mie scarpette, arrossì e per la prima volta mi guardò in faccia. «Oh, mademoiselle, il cameriere Constant vi avrà detto senza dubbio che vi aspetta all'ingresso posteriore. Qui ci sono gli uffici.» «Ma io voglio parlare col primo console, non con il suo cameriere. Andate dal primo console e domandategli se lo si può disturbare un momento. Si tratta di una cosa molto importante.» «Mademoiselle», esclamò supplichevole il giovane, «e non chiamatemi mademoiselle, ma madame. Io sono madame Jean-Baptiste Bernadotte.» «Madame, pardon. Il giovane adesso mi contemplava come se fossi un fantasma. «È stato un errore», sussurrò. «Via, sono cose che succedono. Ma adesso annunciatemi una buona volta.» Il giovane scomparve e subito ritornò. «Posso pregare la signora di seguirmi? Ci sono ancora dei signori dal primo console. Il primo console prega la signora di avere pazienza per un minuto soltanto», ha detto il primo console. Mi condusse in un salottino con delle sedie di broccato rosso scuro, le quali stavano contegnosamente raggruppate intorno a un tavolo di marmo. Un salottino destinato esclusivamente all'attesa, ma io non dovetti attendere molto. Una porta si aperse e divennero visibili 3 o 4 schiene curve, le quali si inchinavano davanti a qualcuno che io non potevo vedere e auguravano buon riposo e buon riposo. Dietro di loro la porta si chiuse. I 4 signori, ciascuno teneva un fascio di documenti sotto il braccio, si diressero verso l'anticamera. Mentre il giovane passò davanti a loro come un fulmine e scomparve nella stanza del primo console. Ma non aveva ancora chiuso la porta dietro di sé che ne usciva di slancio e mi annunciava solennemente: «Madame Jean-Baptiste Bernadotte, il primo console, vi prega di accomodarvi.» «Questa è la più bella sorpresa che mi sia capitata da parecchi anni», disse Napoleone quando entrai. Mi aveva aspettata quasi sulla soglia e mi prese le mani per portarsele alle labbra e le baciò sul serio. Fredde e umide sentii le sue labbra, prima sulla mano destra e poi sulla sinistra. Ritirai in fretta le mani e non sapevo che cosa digli. «Sedetevi, carissima, sedetevi. Ditemi come state. Diventate più giovane, sempre più giovane di anno in anno.» «Non è esatto», dissi io. «Il tempo passa così in fretta. L'anno venturo dovremo già cercare un maestro per Oscar.» Mi costrinse a sedere nella poltrona accanto al suo scrittoio. Lui invece non stette di fronte a me, ma prese a passeggiare inquieto su e giù per la stanza, così che io dovevo slogarmi il collo per non perderlo di vista. Era una grande sala dove si trovavano da ogni parte tavolini coperti di libri e di carte, ma sullo scrittoio le pratiche erano ordinate in due pile regolari, e le due pile posavano su caselle di legno che sembravano lunghi e stretti cassetti da tavolo. Tra le due pile, proprio davanti alla poltrona dello scrittoio, spiccava un magnifico foglio con un sigillo rosso sanguigno. Nel camino crepitava un gran fuoco, faceva un caldo da soffocare. Oh, questo dovete vedere. Sono i primi esemplari appena usciti dalla stamperia. Ecco. Mi mise sotto il naso alcuni fogli stampati a caratteri fitti e minuti. Vidi dei segni di articoli. Il codice civile è terminato. Le code civile della Repubblica francese. Le leggi per cui si è combattuto durante la rivoluzione, elaborate, scritte e stampate, e valide, in vigore per sempre. Io ho dato alla Francia il nuovo codice civile. Per anni egli ha chiamato presso di sé i migliori giuristi e ha elaborato il codice civile francese. E ora questo codice era stampato ed entrava in vigore. Le leggi più umane del mondo. Leggete pure. Ecco, questo riguarda i figli. Il figlio primogenito non ha più diritti maggiori dei suoi fratelli. E qui, i genitori hanno l'obbligo di sostentare i propri figli. Vedete? Tolse da uno dei tavolini altri fogli e prese a scorrerli. Le nuove leggi sul matrimonio non consentono soltanto il divorzio, ma anche la separazione. La nobiltà ereditaria è abolita. A voce di popolo, oggi il vostro codice civile già viene chiamato il codice di Napoleone, dissi io. Volevo tenerlo di buon umore, d'altra parte era la verità. Con una rapida mossa gettò i fogli sul piano del camino. Perdonatemi, io vi sto annoiando, madame, disse, e mi si accostò dietro, vicinissimo. Toglietevi il cappello, madame. No, resto qui solo un momento, volevo soltanto... Non vi sta bene, madame, non vi sta bene davvero, posso togliervelo? No, e poi è un cappello nuovo e Giambattista dice che mi sta benissimo. Egli indietreggiò subito. Oh, naturalmente, se lo dice il generale Bernadotte. Riprese a camminare su e giù dietro le mie spalle. Ecco che l'ho indispettito, pensai, e disperata mi sciolsi in fretta i nastri del cappello. Posso domandarvi a che cosa debbo l'onore della vostra visita, madame? La sua voce era aspra. Ecco che mi sono tolta il cappello, dissi. Udì che si era fermato. Poi si accostò di nuovo alle mie spalle. Lievissima la sua mano mi passò sopra i capelli. Eugenia, disse, piccola Eugenia. Chinai il capo per sfuggire alla sua mano. Era la voce di quella notte di pioggia quando ci eravamo fidanzati. Volevo pregarvi di una cosa, dissi. E anch'io udì che la mia voce tremava. Egli attraversò obliquamente la stanza e si appoggiò al camino di fronte a me. Le fiamme gettavano bagliori scarlatti sui suoi stivali lucidi. Naturalmente, disse soltanto. Come? Naturalmente. Mi sfuggì senza che lo volessi. Non mi aspettavo certo che veniste a visitarmi senza pregarmi di qualche cosa, disse seccamente. E mentre si chinava per gettare un grosso ciocco di legna tra le fiamme. Del resto la maggior parte della gente che mi chiede udienza vuole avere qualche cosa. Ci si abitua a questo al mio posto. Dunque, che cosa posso fare per voi, Madame Giambattista Bernadotte? La sua superiorità beffarda era più di quanto potessi sopportare. A prescindere dal fatto che adesso portava i capelli corti e indossava un uniforme di taglio impeccabile, non sembrava molto diverso da quello d'allora nel nostro giardino di Marsiglia. Vi sareste forse immaginato che venissi a visitarvi nel cuore della notte senza avere un motivo urgente per questo? Sbuffai. La mia collera pareva divertirlo. Di buon umore si bilanciava dalle punte dei piedi ai calcagni e dai calcagni alle punte dei piedi. Oh, non l'ho certo supposto, Madame Giambattista Bernadotte, ma forse l'ho segretamente sperato. È lecito sperare, Madame, non è vero? Oh, così non va. Non va, pensavo disperata, non riesco neppure a farmi prendere sul serio. Le mie dita incominciarono a spampanare la rosa di seta sul mio cappello nuovo. Voi rovinate il vostro cappello nuovo, Madame, lo udii dire. Non alzai gli occhi. Inghiottivo e inghiottivo, e tuttavia sentii che tra le mie ciglia era scivolata una lacrima e scorreva calda sulla guancia. Cercai di acchiapparla con la lingua. In che cosa posso esserti utile, Eugenia? Ecco, Era di nuovo lui, il Napoleone di allora, tenero, sincero. Voi avete detto che molta gente viene da voi per pregarvi di qualche cosa. E siete solito esaudire le preghiere di questa gente? Se posso assumere la responsabilità, certamente. La responsabilità davanti a chi? Voi siete l'uomo più potente che esista, non è vero? La responsabilità davanti a me stesso, Eugenia. Dunque, esprimi il tuo desiderio. Vi prego di graziarlo. Silenzio. Il fuoco crepitava. Vuoi dire il duca d'Enghien? Feci cenno di sì. Con tutte le forze del mio essere aspettavo la sua risposta. Lui mi fece attendere. Uno dopo l'altro strappai tutti i petali alla rosa di seta del mio cappello. Chi ti ha mandato da me con questa preghiera, Eugenia? Questo è indifferente. Sono molti quelli che vi rivolgono questa preghiera e sono una di essi. Voglio sapere chi ti ha mandata, disse aspro. Io sfogliavo la mia rosa. Domando chi ti ha mandata? Bernadotte? Io scossi soltanto il capo. Madame, sono solito avere risposta alle mie domande. Alzai gli occhi. Aveva il capo teso in avanti, la sua bocca era contratta, delle bollicine di saliva gli si annidavano agli angoli delle labbra. Non è il caso di gridare così. Non ho paura, dissi. E realmente non avevo più paura di lui. Oh sì, rammento. Voi viatteggiate volentieri, a giovane donna coraggiosa. Mi ricordo di quella scena nel salotto della Tayenne, disse tra i denti. Non sono affatto coraggiosa, dissi. In realtà sono perfino vile. Ma quando c'è in gioco qualcosa di importante, allora raccolgo le mie forze. E allora nel salotto della Tayenne c'era in gioco molto per voi, non è vero? Tutto, dissi tranquillamente. E attesi la sua immediata risposta ironica. Non venne. Allora alzai la testa e cercai il suo sguardo. Ma anche prima ero stata molto coraggiosa. Fu allora quando il mio fidanzato. Voi sapete che io sono stata già fidanzata una volta prima di conoscere il generale Bernadotte. Allora, quando il mio fidanzato, dopo la caduta di Robespierre, era stato arrestato, temevamo che lo fucilassero, i suoi fratelli pensavano che fosse molto pericoloso, ma io me ne andai ugualmente con un paio di mutande e una torta dal comandante militare di Marsiglia e. Sì, e appunto per questo devo sapere chi ti ha mandata da me stanotte. E questo che c'entra? Te lo spiegherò, Eugenia. La persona o le persone che ti hanno mandata da me mi conoscono molto bene. Hanno veramente trovato una via per salvare eventualmente la vita di questo Anghien. Dico soltanto una via. Ebbene, mi interessa molto costui, che conosce così bene i fatti miei, che sfrutta con tanta avvedutezza questa possibilità e nello stesso tempo cerca di combattermi sul terreno politico. Dunque? Sorrisi soltanto. Come tutto ciò appariva complicato, intricato, politico. Cercate, signora, di considerare la situazione con i miei occhi. I giacobini mi rimproverano di lasciar ritornare gli emigrati e di dar loro privilegi sociali. Nello stesso tempo diffondono la voce che io sto per consegnare la Repubblica ai Borboni. La nostra Francia, questa Francia che io ho creato, la Francia del codice Napoleone, non è una follia, questa? Mentre diceva queste parole, si era accostato allo scrittoio e aveva preso in mano il foglio col sigillo rosso. Ora fissava le poche parole che vi erano scritte sopra, poi gettò di nuovo la carta sul tavolo e si rivolse a me. Ma se questo Anghien sarà giustiziato, farò vedere alla Francia e al mondo intero che io considero i Borboni come una banda di traditori, mi capite, madame? Ma poi si intende. In due passi fu davanti a me, ciondolandosi trionfante, punte dei piedi calcagni, punte dei piedi calcagni. Farò i conti con gli altri, con gli intriganti, con gli eterni malcontenti, con questi scrittori di libelli, con le teste confuse che mi insultano e che mi chiamano tiranno, e li sradicherò dalla comunità francese e difenderò la Francia dai suoi nemici interni. Nemici interni? Dove avevo già udito queste parole? Barras le aveva dette molto tempo fa e con esse aveva alluso a Napoleone. L'orologio a pendolo sul caminetto, un quadrante che posava su due orribili leoni, segnava l'una. Io mi levai in piedi. Si è fatto tardi, dissi. Ma subito egli mi costrinse, prendendomi le spalle, a sedermi di nuovo sulla poltrona. Non andate ancora via, Eugenia. Io sono tanto lieto della vostra visita ed è una lunga notte. Oh, anche voi sarete stanco, obiettai. Dormo male e poco. Io. Una porta dissimulata nella parete, che fino a quel momento non avevo notata, si socchiuse. Napoleone non se ne accorse. La porta segreta si è aperta, dissi io. Napoleone si voltò. Che cosa c'è, Constant? Nell'apertura dell'uscio socchiuso comparve un omicciattolo in livrea da domestico che faceva dei grandi segni. Napoleone gli si avvicinò ad un passo. L'ometto bisbigliava agitato. Non vuole più aspettare. Non si riesce a chetarla. Si rivesta e torni a casa, udii dire Napoleone. La porticina si richiuse senza fare rumore. Deve essere Mademoiselle Georges del Théâtre Français, pensai. Tutta Parigi sa che Napoleone prima tradiva Giuseppina con la cantante Grassini, che adesso è l'amico di Giorgina, la sedicenne attrice Georges. Non voglio disturbare oltre, dissi e mi alzai in fretta. Ma se l'ho mandata via? Adesso non potete lasciarmi solo, disse subito e fu di nuovo costretta a sedermi. La sua voce divenne tenera. Tu mi hai rivolto una preghiera, Eugenia. Per la prima volta nella mia vita mi hai pregato di qualche cosa. Io chiusi gli occhi, esausta. Quel suo continuo mutar di tono mi aveva stremata. Il caldo della stanza era diventato insopportabile e insieme emanava da lui una inquietudine febbrile che mi faceva soffrire. Strano che io, dopo tanti anni, ancora potessi avvertire ogni stato d'animo, ogni sentimento di quest'uomo. Egli riflette. Io lo sapevo. Egli cerca di decidersi, egli combatte con se stesso. Ora io non posso andarmene. Forse cederà, Signore Iddio, forse cederà. Ma tu ti rendi conto di quello che chiedi, Eugenia? Non si tratta soltanto di questo Enghien che non conta nulla. Io devo far vedere una buona volta ai Borboni, a tutto il mondo, quali siano i sentimenti della Francia. Il popolo francese dovrà scegliersi il suo capo. Io alzai la testa. Liberi cittadini di una libera repubblica andranno a votare alle urne. Declama una poesia, ripassa un discorso. A un tratto si accostò di nuovo allo scrittoio e prese il foglio in mano. Il sigillo vi spiccava come un'enorme goccia di sangue. Mi avevate chiesto chi mi ha mandato da voi questa notte, dissi ad alta voce. Prima che prendiate una risoluzione voglio rispondere a questa domanda. Non alzò gli occhi. Vi ascolto. Vostra madre. Lentamente lasciò cadere il foglio. Si avvicinò al camino. Si chinò. E mise sul fuoco un altro pezzo di legno. Non sapevo che mia madre si occupasse di politica, mormorò. Probabilmente l'hanno sollecitata e tormentata. Vostra madre giudica la sentenza di morte non come una questione politica. E come la giudica? Come un assassinio. Eugenia, adesso tu hai oltrepassato i limiti. Vostra madre mi ha pregato con tanta passione di parlarvi. Dio sa se questo sia un piacere. L'ombra di un sorriso guizzò sul suo volto. Poi cominciò a frugare tra le cartelle dei documenti ammonticchiati su di un tavolino e finalmente trovò quello che cercava. Svolse un grosso rotolo di carta da disegno e me lo mise sotto il naso. Come giudichi questo? Non l'ho ancora fatto vedere a nessuno. Nell'angolo superiore era disegnata una grossa ape e nel mezzo era abbozzato un riquadro tutto riempito di piccole api ad uguali distanze. Api? Dissi io stupita. È un emblema, disse Napoleone. Un emblema? E che cosa volete adornare? Fece un largo gesto col braccio. Tutto. Le pareti, le tende, le livree, le carrozze di corte, il mantello per l'incoronazione dell'imperatore. Io trattenni con forza il respiro. Egli tacque e mi fissò. Profondissimi i suoi occhi si tuffarono nei miei. Mi capisci, Eugenia, piccola fidanzata? Sentivo il mio cuore battere a colpi violenti e lui già svolgeva un altro foglio di disegni. Leoni in tutte le possibili pose. Leoni in riposo, leoni saltanti, accovacciati, all'assalto. Di traverso sul foglio stava scritto di mano di Napoleone, un'aquila con le ali spiegate. Ho incaricato il pittore Davide di fare il progetto per lo stemma. I leoni furono gettati in terra con noncuranza e ora mi presentò un altro disegno, un'aquila con le ali spiegate. Ho scelto questo, ti piace? Faceva così caldo nella stanza che potevo appena respirare. L'aquila sembrava salire davanti ai miei occhi, appariva enorme e minacciosa. Il mio stemma, lo stemma dell'imperatore dei francesi. Forse avevo sognato queste parole. Mi riscossi e mi trovai il foglio da disegno tra le mani tremanti. Non mi ero accorta quando lui me lo aveva dato. Napoleone era di nuovo presso lo scrittoio e fissava il foglio dal sigillo rosso. Stava lì, immobile, con le labbra serrate, e sicché il mento sporgeva, angoloso, io avvertii delle goccioline di sudore sulla mia fronte. Non cessavo un momento di fissarlo. Si chinò in avanti, prese la penna, scrisse una sola parola sul foglio e vi sparse della sabbia, poi scosse con violenza il campanello di bronzo. Sul campanello c'era un'aquila dalle ali spiegate. Il segretario entrò di galoppo. Napoleone piegò il foglio con cura. C'era lacca. Il segretario si diede da fare con ceralacca e candeliere, e Napoleone lo guardava con interesse. Fatevi condurre subito a Vincennes e consegnate questo al comandante del forte. Siete responsabile della consegna personale al comandante. Con la schiena rivolta alla porta e facendo trenchini, il segretario trovò il modo di uscire dalla stanza. Vorrei sapere che decisione avete preso, dissi con voce rauca. Napoleone si curvò davanti a me e prese a raccattare i petali della rosa di seta. Avete rovinato il vostro cappello, madame, disse, e mi porse una manciata di straccetti. Io mi alzai in piedi, deposi su di un tavolino il disegno e gettai gli straccetti nel fuoco. Oh, non affliggetevi, era un cappello che non vi stava affatto bene, disse lui. Napoleone mi accompagnò lungo i corridoi vuoti. Guardavo le pareti, api. Pensavo, delle api adorneranno le Tuilerie. Sussultavo perché ad ogni momento delle sentinelle si mettevano sull'attenti. Mi seguì fino alla carrozza. È la vettura di vostra madre, lei mi aspetta, che cosa le devo dire? Lui si curvò sulla mia mano, ma questa volta non la baciò. Augurate buon riposo a mia madre e tante grazie a voi per la visita, madame. Nel nostro salotto trovai Madame Letizia esattamente come l'avevo lasciata. Era sulla poltrona presso la finestra. Il cielo già si era rischiarato. Nel giardino cinguettavano passeri lieti. Giambattista era curvo sulle sue carte e scriveva: Perdonatemi se sono stata fuori così lungamente, ma non mi lasciava andare via. Chiacchierava di questo e di quello, dissi. Un cerchio di piombo mi serrava le tempie. Ha mandato l'ordine a Vincennes? Domandò Madame Letizia. Io annuii. Sì, ma non mi ha voluto dire che cosa abbia deciso. Mi ha detto di augurarvi buon riposo, madame. Grazie, figlia mia, disse Madame Letizia e si alzò. Sulla soglia si volse ancora indietro. In ogni caso, grazie. Giambattista mi prese tra le braccia e mi portò di sopra in camera, mi tolse l'abito e tutte le vesti, poi cercò di infilarmi la camicia da notte, ma ero troppo stanca per poter alzare le braccia, allora mi ravvolse soltanto nella coperta. Lo sai che Napoleone vuol farsi incoronare imperatore? Mormorai. Ho udito questa voce. Secondo me è stata messa in giro dai suoi nemici. Chi te lo ha detto? Lui stesso. Allora Giambattista si chinò su di me e mi fissò in viso. Poi mi lasciò bruscamente e si ritirò nello spogliatoio. Lo udii camminare lungamente lì dentro, in su e in giù. Mi addormentai soltanto quando me lo sentii vicino e potei affondare la faccia nella sua spalla. Ma poi dormii fino a mezzogiorno e nel sonno mi sentivo mortalmente infelice e sognavo di un foglio bianco sul quale brulicavano delle api sanguigne. Maria mi portò in letto la prima colazione e una tarda edizione del Moniteur. In prima pagina si leggeva che il duca d'Enghien è stato fucilato oggi nel forte di Vincennes alle 5 del mattino. Poche ore dopo, Madame Letizia partiva per raggiungere suo figlio Luciano, esiliato in Italia.